Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Buongiorno! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Trovo un'idea molto bella anche dal punto di vista simbolico, che si ricordi poi per sempre Dario Fo, intitolandogli uno dei luoghi in cui lui ha più fortemente radicato la sua esperienza in questa città. Le piaceva Dario Fo? No, assolutamente no, per carità, è morto, faccia l'anima sua, non mi è mai piaciuto, lo trovavo assolutamente super ideologico, stra ideologico. Dario Fo era indubbiamente una grandissima voce critica di questo paese e per moltissimi cittadini italiani, e non, una guida anche civile e spirituale. Per il Movimento 5 Stelle in particolare è stato un grandissimo compagno di viaggio, geniale, allegro. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get... Come per tutti i morti, pace all'anima sua. Non l'ho conosciuto, non mi è mai piaciuto, solo che nei miei confronti si è espresso con accenti razzisti. C'è qua Alessandro Chiappini che mi fa: devi entrare. Ma come fai a entrare? Oh signori, mi appassiona tantissimo questo dibattito. Ma Bob Dylan, le sue canzoni sono letteratura o no? Tantissimo, infatti non ho chiuso occhio stanotte. Non ho chiuso occhio, ho dormito 2 ore perché sono andato a Piazza Pulita, sono andato a dormire alle 2 di notte, sono sveglio alle 5, non mi sto lamentando, è solo fredda cronaca, qui nella Roma un po' grigia e bigia, ma un po' più calda di Milano, Dagli studi di Roma, signori, alle 6:32 minuti, questo è 24 mattino, sì, mi appassiona questo dibattito su Bob Dylan, quasi come una partita Pakistan Sri Lanka di cricket. Più o meno. Un po' di più la partita di cricket. Mi appassiona anche molto il dibattito su Dario Fo, si pace all'anima sua, ma per carità è morto, però D'altronde, devo dire che il caso, il fatto, sì, dal punto di vista italiano, ovviamente, Dario Fo era conosciuto in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. I giornali oggi hanno questa coincidenza astrale incredibile, no? Mettere questi due menestrelli, in un certo punto di vista, questi due grandi artisti, questi due... anche scrittori, si può dire, se no Baricco si offende di Bob Dylan scrittore, vabbè, insomma, cioè, uno ha vinto il Nobel, l'altro è morto, no? Proprio lo stesso giorno, e quindi i giornali aprono su questo, signori. Il Fatto Quotidiano riesce a buttarla comunque sul referendum: votate Fo. Vota, non è male però, votate Fo, gigante. Allora, sono a Roma, appunto. C'è Alessandro Chiappini di fronte a me in regia, c'è Peter Bescapè in regia a Milano, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, ci siamo tutti, c'è anche Flavia Perina. Buongiorno. Sono anche io, ma già che siete a Roma mi potete invitare direttamente in studio, se non ci divertiamo. No, vabbè, questa crudeltà te l'ho risparmiata, questa terribile crudeltà di venire però qui. Però la mattina è cominciata bene, dai, con Bob Dylan, con questa canzone così bella. Poi guarda che assist piacere. Che ti faccio, guarda che assist, dai, che ti faccio. Anche il tuo ultimo libro, Le Dupe, è un po', racconta l'Italia degli anni 70, quella in cui Bob Dylan comunque spopolava. No, ti posso dire, come colonna sonora sono citate molte canzoni nel libro, però questa come colonna sonora ci sarebbe stata molto bene. Che ha significato per te, donna, si può dire anche un po' di destra, di cultura, certo. No? Certo, no. Che ha significato per te Bob Dylan? Ma vabbè, Dylan, insomma, è l'orizzonte americano, sono queste grandi ballate, sono i racconti di queste vite. È il racconto di Hurricane, del pugile che cade e si rialza, questa canzone bellissima che secondo me è una delle più belle canzoni di tutti i tempi. Insomma, il tipo di America che mi piaceva e che ci piaceva è questa dell'America del viaggio, sì. L'America delle avventure, insomma, della frontiera. E quindi è piaciuto anche moltissimo a destra, che ne ha la destra della mia generazione ne riconosceva le qualità proprio poetiche, così come piaceva moltissimo in Italia De André, che può essere in qualche modo considerato il Dylan italiano, anche è lui chiaro. Fece delle cose straordinarie. Pensa che ti ho detto che ha significato per te come se fosse morto, cioè l'ho fatto morire come Dario Fo. A me ha fatto piacere questo Nobel, perché tanto finalmente appunto c'è, danno il premio Nobel a un nome che non dobbiamo andare a cercare su Wikipedia, insomma. Questo è effettivamente vero, cioè quando hanno detto Bob Dylan più o meno tutti ce l'ho, Bob Dylan ce l'ho. Ecco, mentre invece tante volte siamo dovuti andare a cercare su Wikipedia. E poi perché secondo me c'è anche una qualità poetica e letteraria in questo tipo di canzoni. È vero. Insieme a Flavia Perina siamo col deputato Stefano Esposito del Partito Democratico. Come va? Buongiorno, tutto a posto? Tutto bene. Mentre ascoltavo Bob Dylan ho preparato la colazione per i figli, quindi perfetto, devo dire. Fantastico. Non lo so. Vabbè, insomma, va bene. Fantastico. E che colazione fa il senatore, detto deputato, che non è un'offesa? Non l'ho degradata, insomma. No, ma non mi offendo io. Non mi offendo proprio. No, è che volevo allungarle un po' la vita, perché i senatori si sa che tra poco... Il tacchino prima o poi festeggiano il Natale. Come si sente da tacchino, Stefano Esposito? Tacchino felicissimo. Oh, tacchino allegro. Io ho fatto in tempi non sospetti una spilletta quando votammo per la prima volta, diciamo, nel primo passaggio la riforma costituzionale, feci una spilletta. Che regalai anche a parecchi miei colleghi che ce l'hanno ancora, devo dire la verità, perché ho fatto un po' scuola. Ho scritto: io sono un tacchino felice. Oh, che bello, sono un tacchino felice. Perché nella vita ogni tanto bisogna anche essere, può capitare di essere un tacchino felice, di andare nel forno, a rispetto di quello che si dice no? Della politica, non fanno mai niente, si tengono sempre il loro posto, hanno il culo di pietra. Una volta che ci votiamo una legge. I tacchini felici, i tacchini felici. Però se c'è, se c'è una cosa, devo dire che Bob Dylan e Dario Fo hanno regalato oggi ai giornali e a tutti noi, quindi, è di regalarci una grande giornata in cui il dibattito sì, no, finisce a pagina 15 almeno, signori. Questa è una grande notizia. Grazie Dario Fo, grazie Bob Dylan, almeno per oggi è così. Apriamo il Parlamento, forza! Dobbiamo aprire il Parlamento, ragazzi, che è venerdì. Un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, forza, gente! Flavia, per un giorno, insomma, come dire, la tregua è servita. Sì, perché, vabbè, a parte che davvero ci arriviamo col fiatone a questo referendum, ma sono ancora 2 mesi, sono già 4 mesi che ne parliamo. Sai infatti cosa ha detto Berlusconi? Attenzione, no, è tornato Berlusconi. È tornato in voce, diciamo, in voce. È tornato tramite un articolo di Tommaso Labate sul Corriere. Cioè, intanto è incazzato nero per quei forzisti che sono andati alla convention di D'Alema, perché non si fa. E poi dice, insomma, quelli di destra, e poi dice: ma perché tutti ad affannarsi? Tanto si arriva a spompi così, tanto si deciderà gli ultimi 20 giorni e lui lì ci sarà. E lui ci sarà. Beh, ecco. Ma in Italia sempre si decide tutto negli ultimi 20 giorni, perché ormai ci sono delle masse di indecisi elettorali così grandi che le persone poi decidono quando dicono: dopo domani devo andare a votare, mo che cosa vado a votare? Fantastico. Esposito dice gli ultimi 2 giorni. Sì, no, ma molti decidono camminando verso i seggi, molti decidono mentre escono con la macchina dal garage e vanno al seggio elettorale. Le nonne che chiamano, zie lontane: oh, che faccio? Tu che leggi i giornali tutti i giorni? Ma non lo so. Vai a fare una gita. Se è arrivata a questo punto, vai a fare una gita. Stavolta neanche le gite non c'è il quorum, quindi stavolta anche l'argomento gite, che è un argomento di solito molto gettonato nei referendum. Non funzionerà. Non per il quorum, ma dico, se arrivi a 48 ore e manco sai niente, meglio un voto in meno, meglio un voto che non consapevole, che un voto sciagurato, sì, un voto sconsiderato. Non lo so. Esposito, perché a 2 giorni? È una bella considerazione degli italiani. Se arriva a 2 giorni, beh, c'è una. In realtà, non è che sia una mia scoperta, non mi daranno il Nobel. Però è sotto tutti i dati, cioè tutti gli istituti di sondaggio hanno spiegato attentamente che in realtà siamo tra i 2 e 3 giorni, il momento in cui si decide quel 40% di indecisi che c'è anche alle elezioni, decidono gli ultimi 2 o 3 giorni, perché evidentemente, nonostante il martellamento televisivo, poi alla fine alla gente, diciamo, alla gente. In realtà ci occupa, diciamo, delle questioni in maniera contingente, come si dice. Su questo referendum, diciamo, si è partiti con un altissimo numero di indecisi che era superiore al 50%. Adesso io che sto seguendo i sondaggi, settimana dopo settimana si cominciano a prendere delle posizioni. Forse non è esattamente la stessa storia delle altre, perché il blocco degli indecisi sta decrescendo piuttosto velocemente e le persone si orientano da una parte piuttosto che dall'altra. Sì. A me sembra anche che, a differenza che in passato, queste decisioni non sono molto condizionate dal dibattito pubblico, cioè la gente sta un po' scegliendo. C'è molta campagna per il sì in televisione, molta campagna per il no sui giornali, e però la gente si posiziona un po' a prescindere da questo dibattito. Un po' è vero. Prima però sentivo da sotto Esposito che ci sono bambini che si muovono. Sta veramente facendo... appena svegliata mia figlia. Sì. Oh, mannaggia, quanti anni ha? Le abbiamo rotto noi le scale. Tre anni. Mia figlia è un orologio svizzero. Ah, ecco. Cioè, l'omega in confronto sono una banda di dilettanti. Come si chiama sua figlia? Virginia, vuole darle un'autorizzazione veloce, dirci un ciao? Ci vuole l'autorizzazione dei genitori? No, in questi momenti, quando si sveglia, è come suo padre, è nervosa. Quindi lasciamo Virginia. Cioè, però, si chiama Virginia come il sindaco di Roma. Si è rifugiata nel letto con la madre, quindi se torna ed è di buon umore, cioè lei c'ha il sindaco di Roma in casa praticamente, Virginia. Così. Sì, sì, ce l'ho. È una tortura per lei, ce l'ha proprio... No, no, è un, tra l'altro un nome che ho scelto io, quindi, che mi piace perché tantissimo. Perché è stato lungimirante. Per il nome, con la Raggi andrei d'accordissimo, se dipendesse solo dal nome. Comunque, signori, signori, qua Renzi ha trovato il coup de théâtre, secondo me, il colpo gobbo, come si suol dire. Cara Flavia, sai qual è? È la qual questione è? Degli statali. Gli statali. Gli statali che anche quest'anno non so se avranno l'aumento di stipendio come da 7 anni, forse qualche spicciolo si rimedia, tipo 5-6 euro, mangiatevi 2 cornetti, visto che in più alla fine del mese. Però ha annunciato, visto che sente che c'è un po' di manuo, 10.000 concorsi, assunzioni, 10.000 concorsi. Però gli ha dato anche la stoccatina. Senti qua, non fate checco Zalone. Una delle sfide più importanti, caro Antonio, su cui vi chiameremo a darci una mano, anzi a fare meglio di noi, è quella del rapporto con la pubblica amministrazione e con i nostri dirigenti. Rottamare la filosofia checco zaloniana dell'impiegato pubblico, ma andare a dire che loro per primi devono tornare a sentire l'orgoglio di servire il tricolore. L'orgoglio di servire il tricolore. Perché è molto bene, molto bello sentire citare come filosofia Checco Zalone. Sì, sì, diciamo, sì. Anche spero che nelle scuole non seguano questa indicazione, diciamo, restino ad altri capisaldi filosofici. Comunque, detto questo, mi fa impazzire questa cosa di numeri tondi, perché si dice sempre 1 milione di posti di lavoro, 10.000, certo. 10.000 concorsi, sì, perché, sì. Perché poi quando ci sono questi numeri tondi è propaganda. Diciamo l'Esposito, è il momento alle 6.44 minuti del venerdì 14 ottobre in cui può dire tutto ciò che pensa, visto che è stato anche assessore qui a Roma, dei dipendenti dell'ATAC, tipo, ecco, dai, su. Ma io posso dirla così, in Italia ci vorrebbero 50.000 prepensionamenti nella pubblica amministrazione. In modo, senti, anche questo è un bel numero tondo. E l'assunzione immediata di 50.000 giovani. Questo è l'unico modo, secondo me, questo è un po' vero, l'ATAC. L'AMA, sì. Lo dico anche questa ragione. Svecchiamo. In questi giorni, anche pensando all'applicazione del codice degli appalti, è inutile che io mi incassi perché il RUP, piuttosto che il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune che ha 55-57 anni, io gli chieda di applicare il BIM, no? Il sistema. No, perché è inutile. Però, quella persona lì andrebbe aiutata, accompagnata in pensione, con rispetto, lo dico, non per. Voi un po' questa filosofia, questa cosa della rottamazione, ce l'avete un po' in tasca ogni tanto. Non sono un renziano, non dirlo, perché sennò ci sono i renziani che ci ascoltano e gli viene male. Dice Esposito, fa il posto da renziani. No, io non lo sono. Però, appunto, questo è un ragionamento che probabilmente purtroppo non ce la facciamo. Sì. E quindi, ovviamente. Aiutare lo svecchiamento è una cosa buona, la pubblica amministrazione. Bisogna capire. Qua sono state fatte leggi che ci mandano in pensione a 70 anni e poi ci dice che a 55 anni non devi più lavorare. Insomma, diciamo, anche la politica si deve mettere d'accordo con se stessa, perché poi è la politica che ha fatto norme che mandano ormai la gente in pensione verso la quarta età. Magari non in pensione, però un'infornata di dirigenza giovane, per esempio. Dirigenza giovane, cioè poi questi di 55 anni che devono lavorare fino a 70, che ne facciamo? Aspetta facciamo? c'è un momento. Aspetta che c'è Virginia che vi saluta. Ci saluta Virginia, eccoci qua. Ciao Virginia, è buona la colazione di papà? Oh, promosso, bravo senatore Esposito, ottima colazione, promossa da Virginia. Ovviamente gli tirava i pizzicotti dicendo di sì, in sottofondo. No, sono stato zitto sulla colazione, era buona la colazione di papà, anche perché lei preferisce quella della mamma. Ecco, appunto, va bene. Su questa... che avevo preparato e aveva già qualche... dire, mal di pancia. Attenzione, perché? la vera notizia è con questa andiamo al traffico, che il senatore Esposito va d'accordo con Virginia, filmiamoci qua, il cognome non lo diciamo, con Virginia, il senatore Esposito, altro che, è tutto così, è tutta una pastetta, è tutto un inciuccio, è tutto, fingono di litigare, poi vanno sempre d'accordo. Cribio Milan, manda al traffico. In Italia, in Europa e nel mondo, debusciato. Buongiorno, ma con le banche che crollano in questo modo non mi sembra così strano che la gente trovi sicuro tenere i suoi soldi in posti diversi. Mamma mia, Milano, povero paese l'Italia, ma quale democrazia! Ma Peter, l'alpino, è come quello di Heidi? Oh Maria, sono una greca, anche stamani il solito ingegnere dall'estero, di qua, di là. Devi chiamare un panaio, un pasticcere, hai capito? E la dovete smettere voi di là del 24, perché io non vi telefonerei più. If you're traveling to the North Country Fair. Forse al posto della Costituzione, se utilizzassimo, come diceva il mio amico Gomez, i 10 comandamenti, tranne uno, non fornicare, un po' due, cioè, quello lo lascerei fuori. I 9 comandamenti non ci sarebbe bisogno della Costituzione. Capito Feltri, 9 comandamenti basterebbero. Lasciamo, cioè togliamo non fornicare, vabbè. Non era proprio non fornicare il comandamento, un po' diverso. Comunque, siamo con Flavia Perina e Stefano Esposito che sta facendo la colazione a Virginia, tutta molto contenta. E questa è la notizia che ci rassicura. Oh, però noi, come sapete, ogni tanto andiamo a scovare i nostri ascoltatori all'estero, come il nostro grande Anacleto, il toscanaccio Anacleto ci ha detto. Oggi dove andiamo? Dove andiamo? Vediamo un po' di scoprirlo. Io non lo so se troviamo un pasticcere, un fornaio o qualcosa, ma insomma intanto andiamo in Giordania, signori! È vero, Matteo? Esatto, un altro toscanaccio. Oh, cantagli ad Anacleto. Intanto tu ci ascolti da Amman, in Giordania. Ma perché? Che ti abbiamo fatto di male per seguirci? No, Amman? È che iniziavi troppo presto, allora ho detto andiamo un po' più giù, un po' più spostati, almeno mi sveglio un'ora dopo, è più comodo. Ci puoi seguire con un'ora di fuso più avanti. Che fai in Giordania? Che così? Sì, io sono ad Amman solo da 3 settimane in realtà, ma sono un ascoltatore di lunga data. Sì, no, ma cosa fai? Sei in vacanza? Cioè. No, non sono vacanza. Qui lavoro per la Croce Rossa Internazionale, mi occupo della distribuzione dei farmaci nella regione, quindi in Giordania, Israele, Libano, Siria, Iraq. Fantastico. Spero che Anacleto sia contento, cioè non abbiamo trovato un ingegnere, non abbiamo trovato uno che opera sul campo. Dimmi un po', qual è la notizia in Giordania? Noi chiediamo sempre così, no? Visto che diamo le notizie di primo mattino in Italia, la notizia così che va per la maggiore, di cui si discute di più di questi tempi, non solo del tuo lavoro, proprio se tu accendi il telegiornale oggi che trovi? Esatto, guarda, mi dispiace interrompere già la fregua di cui parlavi prima, però anche qui c'è una campagna per il no. No, esatto. Perché? È una campagna che è chiamata Campagna Nazionale Giordana contro l'accordo con l'entità sionista e si riferisce all'accordo tra Giordania e Israele per la fornitura di gas da parte di Israele. È un accordo da 10 miliardi di dollari firmato a fine settembre. Ci sono in corso manifestazioni e proteste contro quello che è visto contro questo accordo, il finanziamento, ci rivendono il gas rubato alla Palestina. Proprio oggi è il giorno dell'ira nazionale contro l'accordo della vergogna, quindi ci saranno altre manifestazioni. È pure venerdì. Matteo, noi ti ringraziamo da Amman, Giordania, capito Flavia? Ti ascoltano da tutto il mondo, cioè è fantastica questa cosa. È fantastico, in tutto il mondo c'è un referendum, votano sì o no anche in Giordania. Oh, ma hai sentito questa cosa che vogliono andare a vedere i nostri 150 miliardi, pare, di liquidi che gli italiani hanno a mano ai picconi, abbatteranno i controsoffitti. Vorrei capire come hanno fatto questa cifra, come hanno detto 150 miliardi invece che 200, ma una stima sulla è una stima tonda. Un sondaggio hanno chiesto una stima tonda. Però un nota sondaggio. Che la cifra è tonda, vedi la che cifra è sempre tonda è perché tonda. Ad essere tonda. Avranno chiesto a Corona. Esatto, avranno fatto forse una stima. Hanno moltiplicato, però non è che tutti sanno sto controsoffitto, capito? Sarà la manovra. Hanno fatto un algoritmo, macchina, un algoritmo hanno usato. Sarà la manovra del mano ai picconi, mano ai picconi. Ma io vi devo salutare, voglio che però prendiate le palette per il voto da 0 a 10, perché quelli di Radio Rock ne hanno combinata un'altra geniale. Con lei che canta è Paola Taverna, 5 stelle, Esposito, non sia cattivo solo perché la Taverna. Senti, no, un no, po', no, senti un po', senti un po'. Primario sì, primario dai, primario fantasma. Io dai, fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò. Vogliamo dire la ragione per votare no al referendum? Sono le parti più geniali. Ma. Perché il popolo deve rimanere sovrano. Primario sì, primario no. E la pinza nella panza purtroppo non è una canzone, è la realtà della sanità. Che bello che gli fanno attuale. Chiedere, poi gli chiedono le cose sulle canzoni. Comunque no, voto sì, sull'intonazione Esposito da 0 a 10 per Paola Taverna. Da 4 al 5. Mamma mia ragazzi, Perina. No, io proprio non classificato. A me il politico che canta, il politico che canta, no. Ma come? A parte Razzi. Non mi rifiuto. Ci cascano tutti. Lo so, ma infatti digli educatamente, però, viva Radio Rock, ma non canto. Sì, diglielo ecco, così. Viva Radio Rock, certo, però il politico che cucina il risotto, il politico che canta, il politico che fa il funambolo. No. Sì, no, va bene. Vi ringrazio, vi abbraccio, ciao. Comando omicida, comando qua, comando qua. Ma se c'è una partita, accettiamo la sfida di Renzi, che ha detto che va via se vince il no. E per questo la manifestazione si chiama Renzexit. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali e che tanti schei 24 mattino. Dai signori, che la 180esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è terminata, perché è venerdì e la 181esima è alle porte, e vedremo che succede. In diretta dagli studi di Roma oggi, eccoci qui con la rassegna stampa di 24 mattino, siamo pronti a leggere i giornali. Che cosa ci vendono? Già andiamo a scoprirlo. È venerdì! Eccolo. Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Allora, per la precisione, è venerdì 14 ottobre. Intanto i titoli dei giornali, l'apertura del Sole 24 Ore sui mercati: pesano Cina e Fed, borse in calo, Milano meno 1,2%. Ma c'è da dire che oggi i giornali sono un po' disorientati alcuni, nel senso che c'è ovviamente, ci sono le notizie importanti, la finanziaria, i migranti, però queste due notizie che ieri si sono accavallate, la morte di Dario Fo da una parte, l'assegnazione del Nobel per la letteratura a Bob Dylan, quindi due grandi artisti, è chiaro che spingono molti giornali o a fare doppie aperture, oppure alcuni a buttarsi proprio come Repubblica su Dario Fo e Bob Dylan, a metterli come le due storie di apertura. Vedete invece il Corriere della Sera mette Dario Fo il giullare, ho giocato con la vita, ma anche crisi migranti, proteste, accuse, centri pieni come titolo principale. Così la Stampa, che ha un'intervista al segretario NATO, soldati italiani al confine russo, parla Stoltenberg, però anche Dario Fo, il Nobel che commuove. Chi invece sceglie proprio l'apertura su Dario Fo è l'Unità, mette una grande foto di Dario Fo, un uomo libero, questo è il titolo, mentre il Manifesto fa un'operazione, beh, anche graficamente molto interessante, Maestro Buffo, con la foto di Dario Fo è il titolo di prima pagina, ma se uno arriva all'ultima pagina e capovolge il giornale è come se ricominciasse. Un contromanifesto, il verso dell'America, e c'è la foto di Bob Dylan, quindi un doppio omaggio, come se fossero due giornali in uno oggi dal Manifesto. Il Fatto Quotidiano invece mette a tutta pagina Dario Fo e il titolo è questo: Vota Fo, che è un gioco tra il vota no Dario Fo, che certamente non era per il sì a questa riforma costituzionale. Il Messaggero: Nobel a Dylan, poeta con l'armonica, ma anche nuovo fisco dalla stretta sull'IVA Equitalia, quindi la notizia come dire, sulla finanziaria. Il giornale invece è proprio così, chissà se anche un po' irriverente, Dario Fu a tutta pagina. Questa è alcune delle aperture. Voglio partire proprio dalla questione di Dario Fo. Ovviamente immaginate, ci sono tantissimi articoli, tantissimi ricordi, tantissime biografie. Ne segnalo un paio. Repubblica, pagina 2, affida alla scrittrice Melania Mazzucco la responsabilità di ricordare, sotto il titolo L'ultima risata, Dario Fo. È alto come una pertica, magro, coi capelli arruffati color argento, i calzoni di velluto stazzonati, fasciato nel maglione scuro a collo alto che all'inizio degli anni 70 costituisce la divisa della gente di sinistra. La definizione non è ancora un insulto. Naso da pellicano, denti da castoro, conferiscono al suo viso, che altrimenti sarebbe solo bello, qualcosa di irresistibilmente simpatico. Ho 7 anni e lui è in piedi nel salotto di casa mia, affollato. Attori e registi bivaccano sui divani, fumano, sgranocchiano olive, ma solo lui esiste, come fosse illuminato da un riflettore. Sta recitando, racconta un aneddoto. Nessuno fiata, tutti sembrano mesmerizzati. Contemporaneamente parla, contraffa voci di uomini e donne, sgranchisce le lunghe gambe, agita le mani, si siede, schizza disegna matita sul foglio bianco. Mi incanta e insieme mi diverte. L'ospite ha un nome breve come una sassata che non si può dimenticare. Dario Fo. Ecco, inizia così il ricordo di Milano Mazzucco, che poi passa in rassegna un po' la vita. A 14 anni il liceo a Brera, poi a Brera stessa si rivela un pittore di talento, ma radio, TV, teatro soprattutto. Nel 62, quando viene bandito dopo alcune battute irriverenti, considerate irriverenti per il tempo, da Canzonissima e dunque dalla TV, per cui si dedica al teatro e va visto dal vivo. E poi gli ultimi anni, insomma, la vita di Dario Fo ricordata da Melania Mazzucco. Ci sono i ricordi come quelli del figlio Jacopo Fo, intervistato, o qualche più che intervista, qualche ricordo rilasciato al Corriere della Sera. Già malato andava in scena per cantare Il mistero buffo. C'è anche interessante ciò che scrive Avvenire, d'altronde Dario Fo anticlericale per eccellenza. Oggi Avvenire però fa di lui un profilo che gli rende giustizia, nel senso che Alessandro Zaccuri racconta di questo anticlericale e racconta per esempio così di Mistero Buffo, forse l'opera, la giullarata che nella lingua inventata del Gramelot rimescolava materiale dei Vangeli apocrifi con spunti provenienti dalle cosiddette profacole, i racconti popolari in cui Gesù, Maria e gli apostoli continuano a girare per il mondo. Ebbene, si chiede Avvenire, era blasfemo Mistero Buffo? All'epoca molti ne erano persuasi, e nel 77, quando la RAI dedicò una lunga retrospettiva al teatro di Fo, l'allora presidente del Consiglio Andreotti dovette incassare un telegramma di protesta firmato dal cardinal Poletti. A quel punto però la storia di Fo era già entrata in quella che potremmo considerare la terza fase, destinata a culminare 20 anni più tardi con il Nobel. E qui Avvenire, dicevo, gli rende un po' giustizia, nel senso che parla di anticlericalismo che col passare degli anni si era in qualche modo attenuato, non solo perché il contestatore Fo si era entusiasmato per un uomo d'ordine come Sant'Ambrogio, ma anche perché qualche prete gli piaceva e lo aveva trovato alla fine, qualcuno magari imprevedibile, come l'intemperante quanto generoso Don Gallo, qualcun altro del tutto inaspettato, come dimostra l'elogio di Giovanni Paolo II dettato ad Avvenire. E quindi il Papa Francesco, un uomo di alta cultura, lo definiva sempre Dario Fo, non poteva non entusiasmarsi per il suo pontificato. Quindi in qualche modo anche Avvenire fa pace un po' con Dario Fo, non lo fa Brunetta invece ancora ricorda le battute al fiele che effettivamente Dario Fo gli fece, e alla Zanzara per esempio disse, racconta Brunetta al giornale: giura da ministro, la prima cosa che farei è cercare un seggiolino per poterlo mettere all'altezza della situazione. Poi altre battute, insomma, Brunetta conclude, dice: cosa c'è da salvare di Dario Fo? Nulla, direi nulla. Mi vengono solo in mente le scolaresche obbligate a andarlo a vedere la mattina quando recitava Mistero Buffo. Vabbè, c'è anche una pagina di Adriano Celentano su Dario Fo, sul Corriere, con le maiuscole. Come si può essere così grandi come lo sei stato tu? Adriano Celentano racconta anche a un certo punto la tua anima che hanno premiato, e da lassù il padre, ogni volta che tu ti proclamavi ateo, si sganasciava dal ridere a tal punto che provocava spaventosi temporali sulla terra. Ehi Dario, il ricordo di Adriano Celentano, devo dire che mi ha un po' deluso, solo due maiuscole effettivamente, speravo di più. Vabbè, veniamo alle cose italiane, eh. Ne cito due o tre di articoli che mi fanno arrabbiare e poi vedremo la vicenda Bob Dylan più avanti. Intanto Sergio Rizzo, siamo sul Corriere della Sera, racconta di questa storia del palazzo in periferia pagato dall'Agenzia delle Dogane, 73 milioni di euro, la spesa pazza delle dogane per la nuova sede. L'Agenzia delle Dogane vuole comprare, per abbattere, per carità, quello che incide sul bilancio dal punto di vista delle locazioni, quindi degli affitti, vuole comprare la sede. E lo fa spendendo 73 milioni di euro, scelta di un acquisto nonostante un ingente patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. L'Agenzia delle Dogane racconta. Il Corriere a pagina 25 vuole spendere 73 milioni di euro per acquistare la sede e a lì. Ma eccoci qui con l'articolo che mi fa della giornata. Siamo all'articolo da Mani sul volante, siamo in Calabria, lo racconta La Stampa pagina 21, Gaetano Mazzucca. L'allegra gestione dei fondi destinati al Museo dell'Andrangheta. Ebbene sì, c'è un Museo dell'Andrangheta e la Procura di Reggio Calabria ha setacciato per un anno la pioggia di finanziamenti erogati dagli enti locali, chiudendo il cerchio poi sul fondatore del museo, Claudio La Camera. Ebbene, l'accusa per lui è truffa aggravata, malversazione, danno allo Stato, falsità ideologica per aver utilizzato soldi per comprarsi iPad, pinze per il bucato, le pinze per il bucato, no. Ma perché le pinze per... ma compratene le pinze per il... vabbè, anche l'iPad, articoli di modellismo, un filtro per la cappa, cibo per cani con apposita ciotola, questo con i fondi destinati invece al Museo dell'Andrangheta. L'ex presidente accusato di truffa, eccolo qui sulla Stampa, l'allegra gestione dei fondi. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Mola mia Alessandro, mola mia che ti sei il numero 2, il numero 2. Vabbè, però adesso bisogna anche dirli magari in qualche dialetto tipo calabrese, siciliano, pugliese. Pugliese era più Trimone, che non è proprio il numero 1. Ma insomma ha un altro significato. Comunque cari ascoltatori, mandateci le vostre sigle al 349-238-6666 via WhatsApp e noi saremo molto contenti di mandarle in onda. Intanto parliamo della manovra, la manovra che arriverà sabato. Mentre qui Alessandro Chiappini sostituisce una lampada intanto. Tutto a posto? La lampada è a posto? Funziona? La regia è aperta? E quindi saluto anche Antonella Migliaccio qui a Roma, è fantastico, c'è un gran via vai, gran via vai. Allora, eccoci qua, dicevamo la manovra. Intanto Renzi ieri ha preso una pausa di qualche ora, come racconta Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, è volato a Bari all'assemblea dell'ANCI e ha confermato che nella costruzione della manovra il governo pensa a rinforzare i vincoli europei. Se in Europa non capiscono, gli facciamo un disegnino, ha detto Renzi. Poi ha annunciato che cosa? Via Equitalia, questa non è una novità, verrà sostituita, dice, con una nuova agenzia. E poi ha annunciato, questo è un tema interessante, 10.000 assunzioni nella pubblica amministrazione, nuovi concorsi. Tra l'altro ha detto sul pubblico impiego va rottamata la filosofia checco-zaloniana, sfidare chi lavora con noi. Ecco qui, comunque Gianni Trovati racconta tutti i dettagli della manovra che ormai deve essere messa a punto entro sabato sera verrà presentata il primo tema è lo sblocco degli avanzi di bilancio, cioè dei risparmi fermati dalle regole di finanza pubblica nei bilanci dei comuni più in salute, da collegare ai progetti nazionali su edilizia pubblica, scolastica e così via. Il secondo punto è una replica del bonus sul fondo pluriennale vincolato che libera spazi di spesa in conto capitale. In ogni caso, il tema dei 10.000 statali è il titolo che prende più spazio anche sugli altri giornali. Libero: Renzi rottama Equitalia, assume 10.000 statali. Anche il Messaggero si concentra: statali, 10.000 assunzioni ma con concorsi mirati. Lo schema sarebbe quello già utilizzato per l'assunzione delle maestre d'asilo nel comune di Roma, che ha portato in cattedra oltre 1.100 nuove insegnanti. E ci si concentrerà soprattutto come settori su forze dell'ordine innanzitutto, e poi infermieri e forse anche medici. Ecco, questa cosa però di infermieri e medici mi permette di saltare sulla Stampa, che già ieri ha fatto notare che il fondo per la sanità subisce invece dei tagli. Ieri si diceva di 1,5 miliardi, ora forse di 1 miliardo. Diciamo che la stretta sulla sanità, che ha già provocato l'ira delle regioni, è uno dei temi principali, come al solito ogni anno di questi tempi, per la questione della stabilità. Allora, le misure dell'esecutivo sulla Stampa. Paolo Russo: stretta sulla sanità, ira delle regioni, i farmaci innovativi sono a rischio. Racconta la Stampa che Italia e la sanità sono a basso indice di popolarità, perciò Renzi dà ordine di aggiungere qualcosa al budget di ASL e ospedali e porta il fondo sanitario a quota 112 miliardi, che però sono sempre 1 miliardo in meno rispetto a quanto stanziato in un primo momento dallo stesso governo per il 2017. Tanto che le regioni, che oggi sono riunite in conclave per l'ultima parola sulla manovra, lanciano l'allarme. Così rischiano di restar fuori dalla porta farmaci innovativi e nuovi livelli di assistenza, con tanto di piano vaccini, assistenza eterologa estesa a tutta Italia, ausili per disabili. Tutto ciò rischia di non essere più finanziato. E quindi il piano vaccini in bilico, l'assistenza eterologa in tutta Italia pure, se non si riporta a 113 miliardi il fondo per la sanità. Staremo a vedere. Anche il Fatto Quotidiano va a ruota e lancia questo allarme: manovra, il governo taglia i fondi al servizio sanitario. Spunta però, secondo Repubblica, un'altra novità. Oh, è bello perché in queste ore che precedono la manovra vera e propria, che si scoprirà sabato sera, ovviamente sono tutti rumors, sono tutte chiacchiere, sono tutte idee, sono tutte cose che magari sfuggono e vengono reperite dai giornalisti e buttate sui giornali. Ecco, Repubblica ne lancia una. Spunta il premio Mamma Domani. Chiappini, tranquillo, a te non ti potrà mai arrivare. No, mi guarda, dice: mamma, ho detto no papà, Mamma Domani. E cioè questo: la misura allo studio, secondo Roberto Petrini, siamo a pagina 33 di Repubblica, è il premio Mamma Domani, un premio 800 euro, una tantum, destinate a far fronte alle prime spese e alla diagnostica per le donne incinte. Se la norma sarà introdotta dalla legge di bilancio, ancor prima della nascita del bambino, dunque si potrebbe avere 800 euro. L'intenzione è anche quella di stabilizzare il bonus bebè, che diventerebbe il quarto strumento a favore dell'incremento demografico. Il vecchio bonus bebè prevede infatti 80 euro al mese per i bambini da 0 a 3 anni per 3.600 euro l'anno. Il sostegno non è per tutti, ma riguarda solo chi ha un reddito ISEE sotto i 25.000 euro e raddoppia sotto i 7.000 euro di ISEE. Ma adesso arriva il premio Mamma, chissà. Non si sa. Mentre non si sa ancora la questione della voluntary disclosure per far emergere, le stime dicono, i 150 miliardi di euro che gli italiani hanno sotto il materasso praticamente. Questo, Chiappini, ti potrebbe capitare. Controlla bene quando vai a casa, perché questo potrebbe capitare anche a te. In tutto questo, ovviamente, il premio Mamma Domani sarebbe un po' anche un tentativo di incentivare, immagino, le nascite. Questo mi fa saltare sul Libero, dove c'è scritto in prima pagina: Franco Bechis fa un articolo per dire che siamo il paese più vecchio d'Europa. In Europa, infatti, siamo il paradiso degli ottantenni. Più 30% negli ultimi 10 anni siamo invecchiati. E questo è il solo primato che abbiamo raggiunto in Europa. il solo primo posto che abbiamo nelle classifiche di Eurostat, l'Istat della Comunità Europea. Il 6,5% della popolazione italiana è ultra ottantenne. Record europeo, alle spalle dell'Italia c'è la Grecia che ha il 6,3 di ultra ottantenni, la Spagna al 5,9, Francia 5,8, Germania 5,6. Nel nostro paese siamo il paradiso degli ottantenni o più. Non c'entra con gli ottantenni, almeno credo, non c'entra sicuramente con il premio Mamma Domani, ma il nostro Mauro Meazza è qui con noi oggi. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Cosa fai a Roma? Sei in trasferta? Ero a Piazza Pulita ieri e quindi sono qua. Ecco, vedi, gironzoli, quindi girando questa notorietà. Vabbè, guarda, vedremo Mamma Domani e tante altre belle cose, le vedremo appunto domani. Perché domani succedono due cose, prima di tutto il compleanno di Carmelo Lauricella, la Radio 24, quindi bene. Ci facciamo gli auguri, ma poi soprattutto, no, o forse neanche soprattutto, insomma, nello stesso tempo, contemporaneamente, aspettiamo il varo della legge di bilancio. Leggendo le pagine del Sole 24 Ore, caro Alessandro, apprenderai anche che si studia una norma per attrarre i paperoni dal mondo. Un regime particolare per i miliardari. Ma loro o i loro soldi? Beh, diciamo proprio loro fisicamente loro, e anche fisicamente. Parte dei loro soldi. Perché te lo spieghiamo a pagina 8, ma la sostanza è questa: se vengono a stabilirsi da noi, ma lasciano qualcosa anche in altri paesi, può succedere quando hai molti soldi, ebbene allora su quello che mettono in Italia pagheranno le tasse qui e sul resto invece pagheranno le tasse altrove. Ma è tutto spiegato come si deve in pagina 8 e 9. 9 poi appunto l'ape che è anche protagonista. Rita, l'ho visto anche oramai. Rita. Hai visto Rita? Sta sì, bene? Sì. No, sempre salute. A pagina 9 l'ho visto Rita. Ah, in quel senso lì, no, pensavo avessi visto Rita a Roma, poiché sta in trasferta. No, ecco, perché naturalmente c'è ancora qualche nodo da sciogliere per l'ape, allora ti invito a leggere, come sempre, con molta attenzione il resoconto che fanno Davide Colombo e Marco Rogari. Molte altre cose si sveleranno domani, non so se alla festa di compleanno di Carmelo oppure invece al Consiglio dei Ministri. Intanto ti voglio dire che non è da sottovalutare la notizia del cavo che Google e Facebook stanno posando nel Pacifico. L'ho visto. Molto molto interessante, posano un cavuccio da 12.800 chilometri mi pare, ma guarda, riferiamo tutto, cambiano un po', diciamo, le geografie economiche, ma anche proprio i modelli per produrre reddito, entrano direttamente nelle infrastrutture questi grandi protagonisti. Leggi tutto, leggi e direi l'articolo da meditazione di oggi. Bene. Così come naturalmente è molto da meditazione anche lo scontro su Tesco, in Tesco per quanto riguarda la Brexit, sai che lì c'è stato un po' di maretta perché con la svalutazione, insomma, c'erano delle compagnie che volevano ritirare i loro prodotti perché non conviene più venderli appunto in Gran Bretagna. Ci sono molte altre cose che vorrei dirti, ma soprattutto auguri per l'Inter, soprattutto. Ah, ma certo, quello dove insieme agli auguri per Carmelo, lì tanti tanti cari auguri per il Milan, naturalmente. Ti voglio segnalare, a proposito, torno un attimo sulla norma dei paperoni, che nelle pagine di finanza che tu leggerai come sempre avidamente, apprenderai anche, tra molte altre cose, che purtroppo i miliardari che noi vorremmo attirare, beh, gli sia un pochino ristretto il patrimonio, 5.100 miliardi sono stati calcolati, in calo di 300, insomma, anche i ricchi piangono, verrebbe da dire, ne hanno contati 1.397 nel mondo, vedremo che cosa succederà nella nostra legge di bilancio. Per il momento, caro Alessandro Milan, cari ascoltatori, come sempre, traffico! Con Alino in tangenziale andiamo a comandare. Alessandro Milan, il Rovazzi dell'informazione. Andiamo a comandare. Ma no! Ma no, ma siamo una radio seria! Ma non possiamo! Andiamo a comandare! Ma non possiamo, noi radio! Ma ragazzi, ma siamo una radio seria, non possiamo. Non possiamo fare queste cose. Dai, cioè. Se... Dai, siamo a Radio 24. Dai, che state facendo anche voi la mossa? Non fate finta di niente, vabbè. Va bene, dai, dovremmo continuare la rassegna stampa adesso, che ci sono cose più serie di cui parlare, ovviamente, coi giornali. Trattore tangenziale, andiamo a comandare. Scatto foto col mio cane, andiamo a comandare. Peter Bescapè, dai, c'è la rassegna stampa, quindi riprendiamo che ci sono tanti temi sui giornali. No, non sto facendo la mossa. Chi mi vede per caso in questo momento sul mio profilo pubblico Facebook vedrà un mio sosia che a Roma si agita. Va bene, dai. Allora, grazie cari ascoltatori. Siamo qui a parlare di immigrazione. Ancora sui giornali c'è anche l'invito del capo dello Stato Mattarella che dice l'Italia lasciata sola. Quello che dice in toni più sfumati, quello che invece Renzi dice in toni più accesi, cioè l'Unione Europea non rispetta i patti sui migranti. Fiorenza Sarzanini racconta che, ed è da vari giorni che numeri alla mano racconta questo, profughi nelle caserme, tra proteste e blocchi per impedire l'accoglienza, c'è massima allerta in varie regioni, d'altronde i centri sono al collasso, i numeri sono quelli che parlano di un paese in cui non si riesce più, pur distribuendoli, ad accogliere in maniera dignitosa prima di tutto anche per loro e poi anche per una questione di eventuali profili di sicurezza per tutti i cittadini italiani, tutte queste persone. I centri al collasso, a pagina 15 del Corriere della Sera si racconta questa vicenda che riguarda l'immigrazione. Per quel che riguarda la politica, per una volta si è un po' assestato il dibattito del referendum, anche perché con la morte di Dario Fo, con il Nobel di Bob Dylan, molte pagine dedicate a questo, fortunatamente per un giorno di tregua. Tra l'altro vi segnalo, secondo Tommaso Labate sul Corriere della Sera, che Berlusconi è pronto a scendere in campo, nel senso che torna in Italia dopo che in America, sia per problemi di salute sia per gli affari, la pista Sky sempre calda per quel che riguarda il futuro di Mediaset Premium. C'è un Berlusconi che torna, e secondo Tommaso Labate in questo retroscena pagina 22 del Corriere, Berlusconi torna irritato con i suoi colleghi di Forza Italia che sono andati all'iniziativa di D'Alema. E poi soprattutto un Berlusconi che dice inutile agitarsi tanto, che parte, chi parte troppo presto arriva spompato al traguardo, la partita del referendum si giocherà negli ultimi 20 giorni e io ci sarò con una proposta mia. Questo dice Berlusconi. Mentre faccio vedere sulla stampa, nel senso faccio vedere anche sul mio profilo pubblico Facebook, eccolo qua per chi ci sta osservando lì, che c'è un problema secondo la stampa per il Movimento 5 Stelle, nello specifico per Luigi Di Maio, ancora una volta una mail, prima c'era stata la famosa mail sul caso dell'assessore di Roma Paola Muraro, non vista. Ebbene, sul caso delle firme false dei grillini di Palermo, un'altra mail mette nei guai Di Maio. L'attivista della denuncia che aveva detto alle Iene che erano state raccolte firme false in modo non corretto per il Movimento 5 Stelle a Palermo, fa sapere che Di Maio, in quanto responsabile degli enti locali, era stato informato con una mail della situazione. E allora il tema è questo: ha visto questa mail Luigi Di Maio oppure no? Ed eccoci qua, Bob Dylan, tanti articoli, tanti dibattiti, il tema è questo: è possibile dare un Nobel per la letteratura a un cantautore? Un cantautore con la C maiuscola, anzi con tutte le lettere maiuscole certamente, però l'Accademia di Stoccolma questo ha deciso. A parte i ricordi, Sandro Veronesi racconta chi è Bob Dylan sul Corriere della Sera, c'è Baricco che ha detto ma insomma che c'entra con la letteratura tutto questo, e ha innescato il dibattito su è giusto o meno dare a un cantautore, a Bob Dylan, il premio della letteratura, cosa c'entra la musica con la letteratura. Don DeLillo, grande scrittore, intervistato per la stampa, pagina 3, dice merita tutto questo, è un grande che ha raccontato il suo tempo come pochi altri, e dunque chiude forse, chissà, la polemica, non si sa, questo è il dato di fatto. Va bene, dai, siamo all'articolo più inutile trovato sui giornali, la carta costa, ci siamo. E siamo sul Fatto Quotidiano, dove Selvaggia Lucarelli dedica un'intera pagina all'harem di Fabrizio Corona. L'harem travolto, tutte le donne di Corona, prestanome, amanti e soprattutto la mamma. Eccole qui, le donne di Corona. Ma chi se ne frega!